Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo martedì 29 ottobre, giorno in cui si ricorda la caduta del muro di Berlino, che molti salutarono come la caduta di ogni oppressione alla libertà in tutto il mondo e che invece poi è risultato, a conti fatti, solamente il trionfo del capitalismo finanziario che superava ogni confine possibile. Di questo parleremo, ma subito con Radio Bullet. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nel web notiziario che ci racconta il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Siria, dubbi sul racconto di Trump sulla morte di al-Baghdadi mentre c'è già un successore. Iraq, migliaia in piazza nonostante il coprifuoco notturno. Raid in una scuola elementare palestinese. I militari israeliani sequestrano una caffetteria mobile. Cile, anche qui non si placano le proteste. Rimpasto di governo. Georgia, attacco hacker senza precedenti. Hong Kong, niente lezioni per l'attivista Wong. E infine, una ricerca dimostra che 50enni possono avere il cervello di un 25enne se meditano anche solo 15 minuti al giorno. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo con l'Iraq. Iraq's military has reinstated a nightly curfew in dove la gente è rimasta in piazza a migliaia nonostante l'esercito iracheno abbia imposto dalla mezzanotte di ieri sera fino alle 6 di questa mattina il coprifuoco notturno a Baghdad nel tentativo di contenere le proteste popolari, mentre sarebbe stato tolto il coprifuoco nel sud del paese. Due giorni fa i manifestanti che protestavano contro le riforme economiche del governo e la corruzione endemica erano riusciti a conquistare e rimanere a piazza Tahrir, mentre le forze di sicurezza non vogliono che gli spazi pubblici della capitale siano occupati. Sono 7 gli studenti uccisi in questi giorni, oltre 200 i morti nel mese di ottobre. Problemi di salute mentale stanno iniziando ad emergere tra le persone che arrivano in Iraq dal nord della Siria. Il team di Medici Senza Frontiere ha recentemente aperto un centro sanitario nel campo di Bardarash. Secondo Bruno Pradale, responsabile della salute mentale di MSF, circa il 50% delle persone che hanno visto durante la loro valutazione nel campo presentava sintomi legati a depressione e ansia, nonché sintomi fisici inspiegabili dal punto di vista medico. Il campo di Bardarash ospita attualmente 11.000 persone provenienti dalla Siria ed è già a piena capacità man mano che le persone cominciano ad arrivare. E continuiamo con la Siria. Mentre sorgono dubbi sulla versione raccontata dal presidente Trump sulla morte del leader dell'ISIS, gli Stati Uniti ha affermato di aver arrestato almeno 2 persone durante il blitz in cui si presume sia morto il leader dell'ISIS al-Baghdadi. Secondo il giornale Arez, che riprendono una dichiarazione curda, con lui sarebbe morto anche il suo braccio destro, Abu Hassan al-Muhajir. E per il Newsweek, l'eredità del comando del sedicente Stato islamico sarebbe passata al capo degli affari islamici, Abdullah Kardash. I corpi di 3 donne, una ragazza e 3 uomini sono stati trovati sul sito dove sarebbe morto appunto al-Baghdadi, secondo una fonte medica del sito New Arab. La fonte medica ha riferito anche che 11 persone sono rimaste ferite nel raid americano sul complesso di al-Baghdadi, inclusi civili. La casa in cui si trovava l'autoproclamato califfo, vicino al villaggio di Barisha nel nord-est di Idlib, è stata completamente distrutta dall'incursione. La fonte ha detto che i soccorritori stanno ancora cercando sopravvissuti sotto le macerie. Il capo di Stato Maggiore Interforza, Mark Malley, ha annunciato durante una conferenza stampa al Pentagono che le immagini del video del raid contro al-Baghdadi saranno diffuse non appena concluso il processo di declassificazione. L'operazione è stata dedicata alla 26enne americana Kayla Mueller, che era stata rapita dal gruppo estremista e uccisa nel 2015. Libano, il governatore della Banca Centrale ha avvisato che l'economia rischia di collassare in pochi giorni e ha chiesto rapidi cambiamenti al governo anche per soddisfare i manifestanti che da 12 giorni affollano le strade costringendo le banche a chiudere. Commenti insolitamente forti quelli di Salamé, ha detto alla CNN in un'intervista che è necessario un cambio di governo per ripristinare la fiducia e garantire che gli afflussi finanziari della significativa comunità della diaspora del paese non si prosciughino. Il primo ministro Hariri sta cercando di ottenere il consenso su un nuovo governo in modo da soddisfare il popolo libanese e riguadagnare proprio questa fiducia. Per il momento non ci sono progressi, non si placano le proteste. I manifestanti hanno eretto barricate e continuano a protestare contro la corruzione per una radicale revisione del sistema politico settario del paese. Lo ripetiamo, siamo ormai al 12° giorno consecutivo. Palestina, l'esercito israeliano ha fatto irruzione in una scuola nel villaggio di Dar al-Maleh in Cisgiordania, hanno demolito una parete e sequestrato un container mobile che veniva usato come mensa. Sono arrivati alle 6:30 del mattino, sfondato la porta della scuola elementare a sud di Jenin, scuola costantemente sotto minaccia di demolizione perché costruita senza il permesso israeliano. Visto che mancava spazio, i genitori hanno donato questo container per la scuola da usare come caffetteria e cucina. Gli israeliani hanno preso tutti gli strumenti, il frigorifero, i fornelli a gas. La scuola, conosciuta come Tahaddi, ovvero la sfida, era stata aperta a gennaio con il sostegno italiano, a 38 studenti tra i 5 e i 15 anni e 8 insegnanti. Stai ascoltando Radio Bullets. Francia, avrebbe 84 anni l'uomo che ha tentato di incendiare la porta di una moschea e poi ha sparato contro due persone ieri pomeriggio alla moschea di Bayonne nel sud-ovest. Claude S. è stato un candidato del partito di estrema destra del Front National del 2015 alle elezioni locali. Regno Unito, è stato convalidato ieri da un giudice fino al 25 novembre l'arresto di Maurice Robinson, l'autista del nord dell'Irlanda di 25 anni che si trovava alla guida del camion degli orrori dove sono stati trovati 39 cadaveri di persone soffocate. L'uomo dovrà, tra le varie accuse, rispondere di omicidio colposo, plurimo e complicità nel traffico di esseri umani. Spostiamoci in Sud America, in Cile, la stazione metropolitana Maquedano nella capitale e un edificio sono stati dati alle fiamme mentre i manifestanti cileni si scontravano con le forze dell'ordine poco dopo che il presidente cileno Piñera ha svelato un importante rimpasto di governo per trovare una risposta a 10 giorni di proteste di strada. Per placare queste proteste il presidente ha sostituito 8 ministri del suo governo e ha nominato l'ingegnere Blume il nuovo ministro degli interni. Blumer va a sostituire l'esponente del partito conservatore dell'Unione Democratica Indipendente Chadwick, che partecipò all'era di Pinochet nella sua lunga carriera di oltre 40 anni. Ieri il presidente Piñera ha anche tolto lo stato di emergenza che durava da più di una settimana, nonostante le proteste non siano mai mancate. La decisione di revocare il decreto a mezzanotte, appena 2 giorni dopo che oltre 1 milione di persone sono scese nelle strade del paese per chiedere un cambiamento economico e politico, arriva dopo che il coprifuoco notturno, altrettanto impopolare, di una settimana si è concluso sabato. Argentina. A volver a construir la Argentina. Ricostruiremo l'Argentina che sogniamo. Questo è l'impegno che prendiamo e speriamo che anche l'opposizione ci aiuti a ricostruire un paese dalle ceneri che sono state lasciate indietro. Vince Alberto Fernandez le elezioni generali facendo fuori il leader conservatore Macri. Scende del 2,9% la borsa dopo la vittoria del peronista alle elezioni. Gli argentini dimostrano di aver rifiutato le misure di austerità ed eletto un nuovo leader di centro-sinistra. Bolivia, sostenitori e nemici del presidente Evo Morales stanno bloccando le strade e autostrade in tutto il paese in piena disputa sui risultati elettorali ufficiali che mostrano il leader di sinistra aver vinto la rielezione. I manifestanti anti-Morales hanno chiuso la città orientale di Santa Cruz per il sesto giorno. I manifestanti pro e anti-Morales si sono scontrati invece nella capitale, La Paz, dove le scuole e molte attività commerciali sono state chiuse e il trasporto pubblico bloccato. Uruguay, spoglio lento dopo le elezioni presidenziali di due giorni fa, ma sembra che si vada verso il ballottaggio previsto il 24 novembre fra il candidato del governo Frente Amplio con Daniel Martinez, accreditato del 38,8% dei voti, e del suo rivale Luis Calle Pou, che ha al momento il 29,4%. Messico, la polizia ha trovato più di 40 teschi, dozzine di ossa e un feto in un barattolo di vetro accanto a un altare in un nascondiglio di trafficanti di droga nel nord di Città del Messico. La polizia ha arrestato durante il raid 31 persone, 27 delle quali sono già state rilasciate. Tepito a nord del centro storico della capitale, conosciuto come un focolaio di attività illecite. Stati Uniti, non si placano gli incendi che stanno devastando la California nella zona nord di San Francisco, tra cui tutta la Valle del Vino. Sono 200.000 le persone evacuate dalle proprie case, gravemente ferito un vigile del fuoco, ma la situazione è preoccupante anche a Los Angeles, dove un nuovo incendio minaccia anche il Getty Center, che ospita preziose opere d'arte. La Georgia è stata colpita da un massiccio cyber attack, colpiti migliaia di siti, tra cui quello della TV nazionale, ma anche siti web di tribunali che avevano materiale di casi e dati personali. In molti casi le homepage sono state sostituite con l'immagine dell'ex presidente Saakashvili e la scritta "Tornerò". L'origine dell'attacco non è ancora noto. Il corrispondente della BBC nel Caucaso, Ryan Dimitri, ha affermato che le persone sui social media stanno ipotizzando che la Russia potrebbe essere dietro questo attacco. Ha aggiunto di essere stato informato dagli esperti di sicurezza informatica che i siti web del governo georgiano erano scarsamente protetti e vulnerabili agli attacchi. Sono stati presi di mira oltre 2.000 siti, tra cui organizzazioni non governative e società private. La portata di questo attacco è qualcosa che non abbiamo mai visto, ha dichiarato il professore Alan Woodward, esperto di sicurezza informatica alla Surrey University. Filippine, terremoto 6.6 sull'isola di Mindanao, alle due nostre, almeno due vittime al momento della redazione del notiziario, tra cui uno studente di 15 anni colpito da un masso, l'altra vittima aveva 66 anni e ha riportato ferite alla testa letali. Ci sarebbero anche dei bambini tra i feriti per il crollo di una scuola. Solo una settimana fa un altro tremore della terra aveva ucciso nella stessa zona 7 persone. Hong Kong, l'attivista democratico Joshua Wong ha dichiarato oggi che gli è stato proibito partecipare alle prossime elezioni locali dopo mesi di proteste. Wong ha dichiarato di essere stato squalificato dalle elezioni di novembre dopo che un ufficiale elettorale ha dichiarato la sua nomina non valida. E concludiamo con la neuroscienziata Sarah Lazar, che ha scoperto che le persone che praticano la meditazione hanno più materia grigia nella parte del cervello legata al processo decisionale e alla memoria, la corteccia frontale, mentre la maggior parte delle persone vede la corteccia contrarsi mentre si invecchia. Chi medita a 50 anni ha la stessa quantità di materia grigia di quelli con la metà dell'età. I partecipanti allo studio meditavano per circa 27 minuti al giorno, ma altri studi suggeriscono che si possono vedere cambiamenti positivi e significativi in soli 15 minuti al giorno. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Vi aspettiamo domani con Paola Mirenda e una nuova raffica di notizie. Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti alla 28ª puntata del Pinsimonio. Le parole di oggi sono legate al futuro e sono vaticinio, pronosticare, presagire, predire e preconizzare. Allora, cominciamo con vaticinio, che letteralmente è una predizione di avvenimenti futuri, per ispirazione divina o come preannuncio, anche soltanto sotto forma di desiderio, di quanto avverrà in futuro. E se il vaticinio è una predizione, il verbo è predire, che significa annunciare ad altri quello che sarà o accadrà, come predire il futuro. O in senso più antico significava anche fissare o decidere in anticipo, predire una riunione. Altro verbo simile è pronosticare, che significa sempre predire, come preannunciare cose future, sul fondamento di indizi o per semplice congettura, pronosticare l'esito di una partita di calcio. Riferito ai medici si dice di formulare una prognosi, prevedere l'evoluzione e l'esito di una malattia, da pronosticare prognosi. Con soggetto invece di cosa e con valore causativo significa far prevedere, dare inizio a qualcosa. Queste nuvole pronosticano tempesta. Continuiamo con presagire, che significa prevedere o annunciare in anticipo un evento o il suo esito prima che avvenga, presagire il futuro. Più genericamente, presagire è anche congetturare, ipotizzare, presentire, in base a indizi o segni premonitori, il verificarsi di un evento futuro, fermenti che fanno presagire una sommossa popolare. Concludiamo con preconizzare, che propriamente significa annunciare in pubblico solennemente. In questo senso si usa ora solo con riferimento all'annuncio che fa il Papa in Concistoro della creazione di un vescovo o di un cardinale. Altrimenti significa anche predire, preannunciare, profetizzare, però viene usato in frasi con un tono più enfatico. Gli preconizzarono un grande avvenire. Detto questo, vi pronostico una buona rassegna stampa con Radio Zanardi e vi aspetto sempre domani alle 9:15. Buona giornata! Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con due O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale. Grazie e buona giornata. Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Is anybody here from the first show? Hey! You sing with me. giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo, una musica per pochi amici come 3 anni fa. A questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu se ne prendi di santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora. Metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi. Quando ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno. Non tornar sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante. Stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. Più zirconi che elzeviri, sembra raccontarci questo valzerino lento dello stacchetto, perché siamo nel dopo elezioni umbre e, come era anche facilmente pronosticabile, non tanto per il successo, questa volta dato in vero anche oltre le più rosee previsioni, le già ottimistiche previsioni della vigilia per il centrodestra, ma soprattutto per la tristezza e la pochezza delle forze che hanno perso, che dimostrano di essere fatte dei piccoli uomini con grandi ambizioni, un sacco di litigi interni, delle gran fibrillazioni, una gran coda di paglia, la cosa subito si riverbera sulla questione anche generale della maggioranza di governo. Questo si desume anche dai vari comunicati stampa, evidentemente veline, tweet dei vari leader della maggioranza giallorossa, ma si evince anche non solo dai titoli ovviamente Maramaldi, guai ai vinti della destra, La Verità e Il Giornale aprono con lo stesso bye bye Giuseppi, Libero Conte di Zingaretti via, Il Tempo con un Conte in sospeso che è già più prudente, ma non solo, anche proprio dei giornali, diciamo, del grande centro, Il Messaggero, Alleanza fallita, il governo trema, Il Mattino, flop alleanza, caos nel governo, Patto flop, Il Gazzettino, il governo vacilla, e poi Il Dubbio, Di Maio col PD non va ma Conte stia sereno, e già qui la malizia renziana è evidente, La Gazzetta del Mezzogiorno, ombre sul, per il governo, un bisticcio futurista comunque, Il Secolo XIX, patto col PD Di Maio è già pentito, Conte lo frena, non c'è alternativa. L'Avvenire, veniamo ai giornali che guardavano con simpatia il contratto giallo-rosso. Futuro umbriatile, questo è. E l'Unione Sarda, gelo nell'isola tra PD e 5 Stelle, quindi è tutto campo. E Di Maio, dice il Corriere, basta alleanze con il PD, ma direi che sono i titoli dei giornali più schierati col governo di giallo-rosso o giallo-rosa. Cominciamo dal Fatto Quotidiano. Umbria Caput Mundo, Caput Mundi, il triangolo dei tre sparati in casa con i volti di Maio, Conte e Zingaretti. Panico giallo-rosa per il voto nelle piccole regioni. Di Maio, basta intese col PD, Conte, no, serve tempo. E c'è la vignetta di Vauro che ben tratteggia questa situazione. L'infermiere che guarda i tre leader, Conte, Di Maio, Zingaretti, pestati, quei bernoccoli, occhi neri, sanguinanti. Fa male? No, perché ce lo aspettavamo. Vabbè, allora, se lo aspettavano è roba da ridere, no? Mica tanto. La Repubblica, titolo principale, Di Maio tra due fuochi, devo tenere i 5 Stelle lontani dalla sinistra, fa poi poca fatica nel contenuto, eh. Il leader si smarca dal PD, Conte, Grillo e Fico difendono però l'alleanza. Conte continua a fare il suo ruolo di rassicuratore, chiamiamolo così. Di Battista invece vuole rompere, già dagli inizi evidenziava questa spaccatura, molto critico. Dopo il successo in Umbria invece passiamo alla destra. Salvini ovviamente fa già i piani per l'Emilia Romagna in vista del voto del 2020. Zingaretti, governare da avversari, allora meglio smetterla. Quindi a sua volta le divisioni già dall'interno, Movimento 5 Stelle poi sono veramente delle schegge impazzite. Allo stesso modo il PD con la vicenda Renzi di poco fa non gode di ottima salute, anzi tutt'altro. Movimento 5 Stelle ai minimi è nel caos, Di Maio dice mai più col PD e sono al governo insieme, il movimento si spacca sulla disfatta in Umbria. Dalla destra in bocca al ritorno di Battista, il leader al centro delle polemiche alza la voce sulla manovra e lancia un avviso al premier. Grillo prima twitta, pensavo peggio, poi evoca il buco nero. Ma Conte, Grillo e Fico stoppano il capo, non cambiare linea, dicono, come appunto dicevo in precedenza, per rassicurare. Queste le varie situazioni per quanto riguarda il post, ma guardiamo invece i numeri e il resto. Stiamo su Repubblica, un elettore 5 Stelle su due si è astenuto o ha scelto la destra. Questa è l'analisi del voto per quanto riguarda la partecipazione, ma soprattutto la presenza a destra all'interno del Movimento 5 Stelle. Per i 5 Stelle perse altri 35.000 voti dalle europee di maggio. Comunque, allora, grandi consensi quando si trattava di Movimento 5 Stelle e Lega. Quando poi c'è stato il passaggio Movimento 5 Stelle PD, un crollo, una debacle generale. Il PD tiene ma non riesce a intercettare nessuno, con il Conte bis l'opposizione per gli analisti trova nuova forza propulsiva. La scelta dei giovani, questa è inquietante, è per Fratelli d'Italia, tutto ciò in Umbria. Lasciamo Repubblica, prendiamo il manifesto che ieri non era in edicola. Non c'è partito, il test elettorale dell'Umbria, che ha visto 400.000 votanti, scuote il fragile equilibrio di governo e accende i riflettori sulle divisioni di PD e Movimento 5 Stelle. Drammatica l'emorragia di voti pentastellati, debole la resistenza del Partito Democratico e Salvini assopiglia tutto, già fa rotta sull'Emilia. Questa è la partenza, non c'è partito, Di Maio archivia la foto di Narni, Zingaretti alza la posta, il leader 5 Stelle, l'esperimento con il PD è fallito, ma avanti fino al 2023. Fino al 2023 è molto ambizioso, eh? Il segretario Dem, se non c'è un sentire comune, però è inutile. Se un esperimento non è andato bene, ci si può fermare a valutarlo. Ci sono altre competizioni regionali che ci aspettano, come ho detto Conte, che resta alla finestra e non dà l'idea, o almeno così non la fa trasparire, di preoccupazione. Salvini invece brinda con Donatella Tesei, si abbracciano, Bianconi piange, l'Umbria rotta diventa nera. La neopresidente già annuncia che abrogherà la legge sulla omofobia approvata un paio di settimane fa, ed è solo l'inizio secondo me, perché se poi ci si sposta su Fratelli d'Italia può ben immaginare. 5 Stelle in tilt e in ordine sparso, non c'è un partito, è il titolo principale del manifesto, che Riprende la notizia del giorno a pagina 4, la batosta umbra alimenta il caos, Di Maio prova a tranquillizzare i pentastellati ostili all'alleanza con il PD, ma anche allo stesso modo con i governisti. Per l'Emilia Bonaccini ora è nervoso e dice qui la partita è aperta, ovviamente a fondo pagina, pagina 4, si passa dall'Umbria all'Emilia Romagna perché questo già è il percorso di Salvini anche per quanto riguarda progetti futuri. La Stampa di Torino, Conte, Di Maio e scontro sul PD, il progetto del nuovo centrodestra e l'analisi editoriale di Ugo Magri. Salvini scommette sulla strategia del pitone, una raffica di successi regionali per far cadere il governo, cioè piano piano, piano piano. Gelo Di Maio Conte sulle alleanze civiche, il capo del movimento è sempre più isolato. Addirittura Grillo dice pensavo peggio, piccolo giallo su un tweet che sembrava il primo ironico commento di Beppe Grillo al voto in Umbria. Pensavo peggio, aveva postato il garante del Movimento 5 Stelle ieri alle 12 addirittura, ma dopo un paio di minuti il tweet è stato cancellato. Più tardi un nuovo tweet non facilmente interpretabile, il link a uno dei brani più famosi dei Soundgarden, Black Hole Sun. E infatti, come dire, il sole assolutamente si è coperto di nero in Umbria. Nell'Emilia, che diventa decisiva, il PD locale corteggia i renziani. I 5 Stelle nessun accordo su tre temi importanti, inceneritori, sanità, infrastrutture e quant'altro, insomma, per evidenziare queste divisioni. Chiudo a pagina 6, sempre dalla Stampa, con la famosa strategia del pitone, un pressing continuo fino al voto. Il capo della Lega esulta, un'elezione dopo l'altra, vediamo poi quanto dura la maggioranza, dice l'abbraccio qui con Giorgia Meloni. Noi veri vincitori delle urne, così Meloni però insidia il capitano per quanto riguarda la leadership all'interno di un'ipotetica coalizione. Allo stesso modo Forza Italia dice no, noi siamo fondamentali. La leader di Forza Italia, Fratelli d'Italia, rivendica spazio nella coalizione, decidiamo noi i prossimi candidati, proprio perché il risultato della Meloni è stato assolutamente soddisfacente. La notte del successo Salvini non ha voluto nessuno al suo fianco se non la protagonista, cioè la Tesei. Il leghista vince la squadra, ma il più grande partito d'Italia, dice così con grande sicurezza, è il Carroccio. Concludo questa prima parte dei quotidiani da me selezionati con il resto del Carlino. Il crollo elettorale da quando sono al governo, stelle cadenti, la fotografia di Di Maio e Grillo troneggia a centro pagina, anche se gli sguardi sono quanto mai inquieti. Ma il titolo principale parla di Conte. Conte resiste, ma l'alleanza si sfalda. Il premier dichiara avanti fino al 2023, Di Maio gelido, d'ora in poi al voto da soli. Nel PD cresce la voglia di rompere. Ecco perché il grillismo perde i pezzi. Di Maio archivia il PD, ma resta sotto accusa. Si prosegue con la disfatta dell'Umbria, tensione nei gruppi parlamentari. Non è il Movimento 5 Stelle che abbiamo costruito, e il leader dichiara adesso veramente basta alleanze, anche se non so la forza del Movimento 5 Stelle adesso in soldoni e in numeri quanto può arrivare. L'arrocco di Conte, la sicurezza, ora avanti compatti, cosa volete mai che dica? Pagina 3 dal resto del Carlino. Non abbiamo citato Renzi, lo facciamo in conclusione. Renzi non fa sconti, dice, è stato un suicidio. Il leader di Italia Viva, un errore l'alleanza, scintille con Zingaretti, colpa mia, con me segretario vincevamo ovunque, diceva appunto Renzi. A Camera e Senato il numero degli arrivi da destra e sinistra cresce sempre di più, sarà decisivo anche nel Lazio. E sarebbe anche consolante per i 5 Stelle pensare che è stato l'abbraccio col PD a creare questa crisi. In realtà stessi risultati quando era con i giallo-verdi, perché anche elezioni sarde, abruzzesi, stessi risultati per i 5 Stelle, un crollo generalizzato. E quindi va anche oltre il problema delle alleanze. Così come, anzi, viene da pensare che i 5 Stelle abbiano fatto l'alleanza in Umbria sperando di coprirsi con l'ombrello di voti del PD la loro crisi, mentre il PD cerca di coprire la propria crisi con gli scandali, abbracciando i 5 Stelle. In realtà hanno unito sfiga sfiga e ha portato la vicenda. Ma i 5 Stelle sono in caduta libera e ci vorrebbe davvero un altro leader per dare una sterzata che non sia Di Maio. Perché leggo da Corriere di Bologna, 5 Stelle, la resa di Imola. Piove sul bagnato, grandine sull'inondazione. Annuncia a sorpresa della sindaca San Giorgi, mi dimetto. Regionale Di Maio rompe col PD. Ma devo dire che alla luce dei fatti, l'alleanza con i 5 Stelle non è che porti un gran bene, perché sì, torno sull'analisi del voto col Sole 24 Ore. Dal 5 Stelle un voto su 4 al centro-destra. Poi gli altri sono astenuti, quindi forse se si presentano da soli almeno rubano un po' di voti al centro-destra. Flussi elettorali, rispetto alle politiche del 2018 il 39% degli elettori pentastellati non è andato a votare. il voto verso gli altri partiti dai 5 Stelle. Il 14% ha votato Lega e il 9% Fratelli d'Italia. Solo il 12% è rivotato per il Movimento, ora il partito è al bivio. Anche il PD è andato malissimo perché ha perso 13 punti rispetto al regionale 2015, passando dal 35,8 al 22,3. Quindi c'è la... D'altra parte, appunto sulla destra, Salvini vince e sedia il Premier, sempre il Sole 24 Ore, solo la Meloni guadagna voti. Su questo anche Travaglio riflette, Pulvis et Umbria, citando il famoso Schiavone. Dunque, Marco Travaglio, se le elezioni regionali in Umbria fossero un test nazionale e lo sono per il 2% dell'elettorato, andrebbero confrontate con le europee del 26 maggio e si scoprirebbe che l'unico partito che guadagna voti è Fratelli d'Italia, spese di Forza Italia, mentre perde di 7.000 persino la Lega, trionfante, malgrado la candidatura del centrodestra sia una leghista di ferro. Salvini non ha espugnato l'Umbria l'altro ieri, l'aveva già conquistata a maggio, anzi addirittura 2 anni precedenti, con le vittorie in quasi tutti i piccoli comuni. E il PD aveva perso ogni speranza dopo 49 anni di governo ininterrotto. Il 12 aprile, con la retata che si era portata via mezza giunta, mezzo parte di vertici locali, i 5 Stelle in quei giorni erano ancora al governo con la Lega ed era anche grazie ai loro esposti in regione che l'inchiesta era partita, eppure alle europee avevano quasi di metà di voti dalle politiche di un anno prima. Già allora le dinamiche nazionali centravano però poco. La maggioranza degli umbri, impoveriti e indignati da una lunga crisi industriale e morale, avevano già scelto di cambiare tutto dopo mezzo secolo buttandosi sul partito che dava più garanzie di vittoria, che aveva già un candidato forte, la sindaca di Montefalco Donatella Tesei. Quindi questo elemento spiega abbastanza bene che la vittoria non è per i meriti della destra, ma ancora una volta per i strademeriti di chi dovrebbe opporsi alla destra in un modo o nell'altro. Ma facciamo un'analisi di questo voto con, sulle regionali, con Dario Tuorto, docente all'Università di Bologna e coautore del libro La Lega di Salvini, estrema destra di governo. Sentiamo le sue parole. È un fascino che continua, ma in realtà ben pochi avevano pensato dopo la fine dell'esperienza di governo al fatto che appunto potesse finire così rapidamente, un'ascesa che si è interrotta ma che continua ad avere tutte le condizioni dalla sua parte. In realtà questo voto a mio avviso rappresenta un'enorme proiezione collettiva da parte dell'elettorato su un progetto che però appunto presenta una serie di incognite. Quello che è interessante rilevare oggi è che l'elettorato sembra disposto a dare credito a una figura, a un progetto senza avere le idee chiare su questo progetto, su questa figura. Questa è l'impressione. È successo qualche tempo fa al Sud con il Movimento 5 Stelle, sta continuando a succedere adesso con la Lega, che non è al governo. Evidentemente ci sono delle aspettative enormi che si alimentano anche del fortissimo scetticismo e di condizioni oggettive di difficoltà che hanno attraversato il territorio umbro, così come rischiano di attraversare di fronte a una ripresa dell'instabilità anche il contesto nazionale. Negli ultimi anni, lo stiamo assistendo oggi, insomma, sono saltate un po' di categorie che forse erano anche, come dire, luoghi comuni che riguardavano la politica italiana. Il fatto che l'elettorato italiano prediligesse, diciamo, figure moderate, sono un po' saltate queste categorie. Ma certo, non è il tempo delle figure moderate, però sarebbe il tempo delle figure con le idee chiare, con le idee, con progetti strutturati su quello che dovrà essere il paese e dove dovrà andare. Ecco, questo manca sostanzialmente, perché la politica degli accordi, la politica della prospettiva breve non riesce a reggere. Insomma, l'elettorato oggi si sente di dar fiducia a progetti di lungo periodo, anche se poco definiti, con le idee chiare, anche se comunque irrealizzabili, apparentemente irrealizzabili, però progetti che abbiano, diciamo, uno sguardo. E questa semplificazione, questa ipersemplificazione del discorso leghista evidentemente riesce a rendere di più, anche se estrema, questo ci colpisce, ecco. Ecco, voi nel vostro libro avete analizzato tutte le fasi di questo partito della Lega, e anche se insomma questi temi sono emersi anche ad esempio con le elezioni in Basilicata, una volta la Lega era secessionista, era antimeridionale, adesso non lo è più, e quindi comunque come è riuscita a conquistare e ad affascinare gli elettori del Sud Italia? Ma qui è un discorso che potrebbe essere esteso, in realtà non è tanto l'elettorato del Sud Italia su cui in realtà il progetto leghista cerca di far presa, ma è tutto da vedere appunto la capacità attuale della Lega di rendere allo stesso modo anche al Sud. Però c'è una questione più generale, che è quella della sovrapposizione degli elementi di carattere, le spiegazioni di carattere sociale, sociologica, economica con quelle geografiche. Queste sono aree interne, sono le aree cosiddette periferiche. Oggi i problemi si ritrovano esattamente, diciamo, in questo intreccio di situazioni reali o percepite di difficoltà e condizioni, a questo punto direi oggettive, di perifericità. La periferia geografica, la periferia sociale ed economica si mettono assieme e poco conta, diciamo, il dato oggettivo. Nel caso dell'Umbria in realtà c'è anche il dato oggettivo, cioè l'Umbria è stata una delle regioni negli ultimi anni che ha perso di più in termini di PIL reale, quindi non è solo percezione in quel caso, ma è tutta quella dorsale, quelle aree interne che in qualche modo dentro questo discorso si sentono prima abbandonate e poi pronte a proiettare un futuro e a concedere quindi una possibilità ad attori che ipersemplificano il discorso. E allora a questo punto le faccio un'ultima domanda che forse è la più difficile, perché è una previsione, perché appunto sappiamo che il prossimo 26 gennaio si voterà anche in Emilia Romagna. C'è, come dire, la prospettiva di un'affermazione forte della Lega anche qui? Ma le condizioni sono diverse rispetto all'Umbria. Io non mi sento di escludere un ottimo risultato della Lega, però le condizioni sono molto diverse. Certo che i numeri pesano, l'elettorato sarà diviso tra, appunto, dare credito a una scommessa, cioè quella di abbandonare un modello decennale di governo, oppure continuare a ritenere, diciamo, questa stabilità migliore per diversi aspetti. Conta il candidato, conta anche il rapporto tra elettori delle aree del centro, delle aree direi dell'asse della Via Emilia, rispetto agli elettori delle periferie. Contano questi numeri. La partita sicuramente è incerta, però le condizioni credo che siano abbastanza diverse rispetto al caso dell'Umbria. Mancano ancora un po' di settimane, ecco. Quindi probabilmente anche le vicende nazionali potrebbero influire su questo risultato. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. È evidente che solo un atteggiamento saldo e molto lucido potrebbe resistere al momento per una compagine di maggioranza governativa. Ma, come racconta anche il Corriere, PD sotto shock, l'ira contro gli alleati, è Don Monica Guerzoni, Zingaretti non si governa tra nemici. Senza un comune sentire bisogna anche trarne le conseguenze. Questo, che mancanza di comune sentire, credo che fosse anche la premessa dell'accordo giallo-rosso. Comunque, Renzi attacca, intese sbagliate, lo avevo detto, quello Renzi il giorno dopo. Mentre la Lina Palmerini, credo che giustamente centri l'aspetto principale tra le tante debolezze di questa compagine, il governo ostaggio del declino dei 5 Stelle, né più né meno, che possono allearsi anche col diavolo, ma a questo punto sembra che l'elettorato scottato dalla prima roboanticità delle loro dichiarazioni e poi dalla pochezza del loro governo li abbia abbandonati, chi pochi a sinistra, chi in tantissimi nell'astensione, chi ha un certo numero verso la destra. Allora PD avverte Renzi, 5 Stelle uniti o al voto. Quello che è il Fatto Quotidiano, è interessante leggere, non tanto giornali della destra che ovviamente amplificano il boato e cercano di capitalizzare sulla caduta del governo, quanto quelli che invece sono coi 5 Stelle col governo. Allora andiamo al Fatto Quotidiano. Antonella Caporale, un vaffa cosmico che lascia vivi Dem e morituri 5 Stelle. Cioè, mi sembra che sia una chiamata senza appello. L'ex Regione Rossa, oggi Verde, sul corso di Perugia dopo la disfatta del patto civico, la verità è che stiamo sui coglioni, Salvini è un ciclone. Non se ne poteva più, il sindaco di Terni prima si era depressi, certo che nulla potesse cambiare. L'ex governatrice dice che Tuscia Marini aveva annunciato da tempo l'arrivo della tempesta perfetta, creata da questa signora, è quella che ha aperto l'inchiesta, vero? Della serie. Allora il diario dei Malavoglia, che era questa pagina tra l'amaro, l'ironico, il politico di Antonio Padellaro, guida il masochismo del pret-à-porter giallo rosa. Sconfitta annunciata, bisognava andare al voto, Umbro il suo peso politico non eccelso, se invece c'è la foto kamikaze di Narmi, che si è fatti fotografare, il penultimo giorno si è fatti fotografare insieme Zingaretti, Di Maio, il candidato del centro-sinistra, che peraltro era, poteva stare tranquillamente anche nell'altro schieramento, tanto per non cambiare la musica. Allora, corredo anch'io con le notizie prese da Repubblica, perché visto che c'è la mossa del pitone, come la chiama Salvini, vediamo le spire di questo rettile dove vogliono arrivare. La destra si divide l'Italia e la Meloni risponde: a noi, è abituata a questa espressione, aggiunge, a noi la Toscana. Il candidato nella regione del leader di Italia Viva fa discutere Lega e Fratelli d'Italia. La fotografia qui ritrae appunto Matteo Salvini e il percorso da Perugia, dall'Umbria, dall'Emilia Romagna arriva anche alla Toscana, regione di importanza fondamentale, soprattutto come le altre due, per quello che è stato un percorso certamente dal PC al PDS, poi ai DS. E guardate un po', si è sempre spostato a sinistra, a destra, scusate, a destra, e queste sono le conclusioni e queste sono le purtroppo conseguenze. Da Repubblica, fra l'altro, restando sul quotidiano Repubblica, vedo poi anche le realtà legate al governo post Umbria, ma che restano sempre presenti, come la manovra, la resa dei conti, si riapre il cantiere, sfida su quota 100 e partite IVA, oggi il vertice di maggioranza sulle misure, il PD, norme più restrittive sulla mini flat tax, il Movimento 5 Stelle teme imboscate sulle pensioni, già abbiamo citato nelle altre rassegne questa realtà che porta sempre più divisione a proposito delle realtà di governo. Ma non solo, quello di cui abbiamo importanza e soprattutto solo dal Manifesto, ma dagli altri quotidiani veramente poco se non nulla, ricordiamo che dalla Ocean Viking da 10 giorni attende un porto per 104 migranti. La nave della ONG francese SOS Mediterranee e la Alan Kurdi, la CI, con 90 persone a bordo, bloccate tra Linosa e Malta. Siamo pronti a fornire aiuto se ci dovesse essere richieste. Le discussioni sui ricollocamenti proseguiranno le prossime settimane. Le fotografie sono quelle a cui purtroppo siamo abituati, cioè persone in condizioni di abbandono a se stessi in mezzo al mare. I catalani di Open Arms hanno salvato 44 migranti in acque internazionali. Domenica hanno ottenuto Malta come porto sicuro. Erano su una barca di legno che andava a pezzi, stretto uno all'altro. Il motore in avaria, ha spiegato l'equipaggio. La balletta ha impiegato 24 ore per farsene carico. Le convenzioni internazionali vanno rispettate, sempre, non solo nella zona SAR di competenza. Sulla Ocean Viking invece comincia oggi l'11° giorno di attesa di uno scalo sicuro. Dicevi la strategia del pitone, che è quella che peraltro lascia l'uccellino davanti alla bocca aperta del pitone, non riuscire a scappar via, rimanere ipnotizzati e farsi ingoiare come un pollo. Questo sembrerebbe il rischio che ci sia anche rispetto alle elezioni Milano-Romagnole. Perché ricordiamo che l'Umbria, tutto quello che c'è da dire, va detto sulle cose nazionali, era una regione in cui il PD usciva da un'inchiesta massacrante, senza nessuna credibilità, divisissimo al suo interno. Allora ha ragione Bonaccini nel Fortino Emiliano, in questo caso qui tanti primati, l'arresti di missioni. Quindi non c'è, appunto, se non si perde la testa, non tutto è perduto, diceva qualcuno. Ma in realtà le cose vanno forse diversamente, e allora il retroscena, perché naturalmente questo è il campo aperto per i retroscenisti, uno può dire quello che vuole, è di Marzio Breida dal Corriere. Per il Quirinale, cioè per Mattarella, che viene sempre evocato da Salvini, adesso anche dalla Meloni, è la manovra la vera prova del fuoco, e se c'è la crisi subito alle urne. Quindi questo governo fa la manovra, non fa sporcare a Salvini le mani, che per la manovra che ha fatto l'anno precedente con 23 miliardi, quindi rimane pulito, dopo si va alle elezioni. Sarebbe un capolavoro. Il Colle con 3 tentativi per un nuovo esecutivo, questo è il Corriere della Sera. E Conte naturalmente, perché c'è chi tiene insieme la sua maggioranza. Viene, c'è chi citava Grillo Gruppi Inglesi. Conte cita più italiano Modugno. Come Modugno cita la canzone meravigliosa di Domenico Modugno, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chi gli chiede mentre fa il proprio ingresso all'evento Poste Italiane Sintesi d'Italia, se si senta messo in discussione dopo la sconfitta in Umbria della maggioranza giallorossa. Sembra una canzone di Modugno, non ho niente ma ho il cielo, il sole e il mare, dice Conte. Dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso. Ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso. Finita e ti sentivo ancora sapore della vita, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Applausi per il meraviglioso di Domenico Modugno. Veniamo alla cronaca italiana. Come viene poi narrata, evidentemente, la tragedia dell'assassinio a sangue freddo di Roma era stato narrato come due ragazzi che passeggiano per la strada e improvvisamente, in questo mondo senza abbastanza carabinieri e poliziotti, è arrivato qualcuno che li ha freddati con un colpo alla testa. Le cose sono andate diversamente. Non che cambi la gravità del crimine, ma che la mette in un altro contesto. I contatti con Pusher, la consegna a tutti i buchi nel rapporto di Anastasia, Roma, le telefonate due giorni prima dell'omicidio del fidanzato, il giallo dei soldi spariti dallo zainetto, si parla di 20.000 euro. Questo è il Corriere. Il Fatto Quotidiano, da più esplicito, narcotrafficanti, dopo gli assassini di Luca Sacchi. Sì, è l'argomento di cronaca che più tiene banco sulle pagine dei quotidiani odierni. Vediamo se c'è da corredare da altre notizie, anche riprese dalla Stampa o da Repubblica, però questa, diciamo che per quanto riguarda la cronaca, è la notizia principale di primo piano, come dice giustamente la Stampa di Torino. Delitto Luca Sacchi, nello zaino rubato 35.000 euro per la coca. Roma, gli inquirenti puntano sulla pista dello spaccio, i soldi sarebbero spariti la sera stessa dell'omicidio. Una compravendita di droga degenerata in rapina, poi omicidio, ma si sarebbe trattato di cocaina, non di marijuana. Un chilo di cocaina in cambio di 35.000 euro. Denaro probabilmente contenuto nello zaino rosa di Anastasia Kilemnik, rubato da Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, in carcere con l'accusa di aver ucciso il fidanzato di Anastasia, Luca Sacchi, 24 anni. E questa è la pista dell'attenzione di inquirenti investigatori dalle indagini di carabinieri e polizia coordinate dalla PM Nadia Plastina. Emerge infatti che la galassia di Pusher intorno agli assassini è dedita alla vendita di cocaina e non di marijuana. Per quanto riguarda la cronaca, non finisce qui, perché purtroppo troviamo un'altra realtà che riporta al Carlino, ma che riprende anche la stessa Stampa. Uccise il figlio, prima accusa di tortura domestica. Anche solo raccontare cosa successe la sera in cui il piccolo Mehmet Ahmed, 2 anni, fu ucciso, fa male. Accadde in contesto di degrado morale, fisico assoluto. A ucciderlo fu il padre, Ali Karustić, 25 anni, fiorentino di origine croata. Prima di essere assassinato, Mehmed fu seviziato dal papà sfrattato e di strafatto, scusate, di droga, che arrivò persino a bruciarli con gli accendini i piedi perché la smettesse di sporcarsi con i suoi escrementi quando era senza pannolino. Addirittura una circostanza che ora i PM riassumono con il reato di tortura, contestato per la prima volta in Italia in un caso di violenza domestica. Lo si legge nell'avviso di conclusione indagini prodromico alla richiesta di rinvio a giudizio consegnato ieri all'indagato. Dal Fatto Quotidiano: muore nelle mani dei carabinieri, si indaga. Succede nel messinese a Spadafora. Enrico Lombardo, 42 anni, deceduto sotto casa dall'ex compagno, lo avevano immobilizzato. Sembra di leggere altre cronache di questo tipo. Procura Messina, dice IPM, chiarezza per evitare un altro caso Cucchi. Esiste un video girato da un passante. E allora, ancora una volta, ci si basa sui video dei testimoni per vedere l'operato delle forze dell'ordine. Vengo invece alla pagina ambientale, sempre dal Sole 24, dal Fatto Quotidiano, con Urbano Croce. La Caffaro avvelena ancora. Brescia apre 2 inchieste. Si parla di una fabbrica. Dalle vasche dell'ex azienda dell'azienda chimica esce cromo esavalente. Altrove il mercurio è fuori norma, indagati, tra cui il commissario straordinario. Si mette un commissario straordinario che diventa complice della cosa che deve indagare. Lo stabilimento, le sostanze non fanno più parte del ciclo produttivo, ma la zona non è bonificata, quindi colpisce come un orologio a distanza, come una bomba orologiera. Poi già citavi questa vicenda che io riprendo, l'appello all'Italia, torna all'assalto all'ONG, aprite i porti, ed è il giornale che, a differenza del manifesto, parla non di accoglienza ma di assalto. Vedete come questa notizia viene narrata in modo antitetico. La Lancurdi si avvicina mentre l'Ocean Vikings è bloccata al largo della Libia. Alto mare, a bordo sono 104 migranti, tra cui due donne incinte e 41 bambine. Ed è curioso che quando c'è il governo in giallo rosso, il giornale è quasi dalla parte dei migranti. Prima dicevano, beh, non si sa se poi sono affogati, non si sa quando, ma secondo alcune testimonianze dubbie. Adesso invece guai chi tocca, perché appunto non sono loro al governo. Detto questo, noi siamo comunque per i guai chi tocca, al di là di chi è al governo, allora ne parliamo di accoglienza. Perché uno degli elementi di discontinuità che ha portato alla nascita del governo Conte bis era la modifica dei decreti di sicurezza, che però sembrano scomparsi dall'agenda politica, improvvisamente non se ne parla più. Nel frattempo lo smantellamento e l'accoglienza prosegue. Il prossimo 31 ottobre proprio a Bologna scadranno i contratti per la gestione dei centri di accoglienza straordinaria, e tante sono le incognite. E quindi abbiamo raggiunto Tiziano Ghidelli di ADL Coba. Sentiamo le sue parole. Nei centri di accoglienza straordinaria, i cosiddetti CAS, che sono, diciamo, a regime prefettura rispetto invece all'ex PRAR che è del comune, scadranno le proroghe che erano state fatte già quest'estate, scadranno il 31 ottobre. Quindi avremo sul territorio di Bologna e provincia circa più di 750 richiedenti asilo ancora, diciamo, accolti nei CAS, per cui la prefettura dovrà prendere una decisione, e sembra che, dato che non si può fare un'ulteriore proroga, ci sia una manifestazione di interesse con ulteriori ribassi nella quota pro capite per richiedenti asilo. Quindi stiamo parlando di quei famosi 35 euro che non saranno, esatto, più così? No, erano già stati ribassati, diciamo, nell'ultima proroga effettuata il 30 giugno, quando ancora il Ministero dell'Interno era in capo appunto alla Lega Nord, a Matteo Salvini, e quindi seguendo le nuove direttive del Ministero dell'Interno vi era già stato un ribasso circa del 10-15%. Poi in verità ogni cooperativa, diciamo, aveva avviato un'interlocuzione, per così dire, con la prefettura, però diciamo il ribasso medio era già stato quello, e ci sarà molto probabilmente un ulteriore ribasso, tra l'altro appunto comunicato con pochissimi giorni di anticipo, per cui le cooperative si troveranno a dover prendere una decisione, al netto del fatto che quello che sappiamo noi è che la prefettura ha già detto ad alcune cooperative: non abbiamo posto, quindi comunque a prescindere questi richiedenti asilo, tra virgolette, ve li dovete tenere. Quindi è una sorta anche di ricatto, chiamiamolo così. A proposito delle cooperative, iniziative. Nella primavera scorsa c'era stato un gesto anche insomma abbastanza clamoroso, cioè gli enti gestori insomma dei centri di accoglienza bolognesi avevano disertato il bando. Esatto. Si hanno notizie se sono intenzionate a farlo anche in questa occasione? Noi sappiamo che alcune cooperative hanno inviato alla prefettura una richiesta formale, ufficiale, di non voler più avere in carico i richiedenti asilo a queste condizioni già ribassate, già dovendo stringere su alcuni servizi erogati, col personale comunque, gli operatori e le operatrici parecchio diciamo provate da questo ultimo anno due di lavoro, con una situazione di tensione data anche dai numerosi dinieghi dei documenti abbastanza sostenibili. Noi sappiamo che alcune cooperative hanno mandato questa richiesta di disdetta che a quanto pare è stata respinta al mittente. Ritornando un po' alla quota pro capite insomma giornaliera, passare da 35 euro a 23-18, insomma sono queste un po' le cifre che circolano, che conseguenze porterà proprio su l'accoglienza? Se come sembra si passasse una cifra ancora ridotta rispetto ai 20-26 che erano diventati attuali, 27 a 23 o addirittura 20-18, sicuramente un taglio su tutti i servizi collaterali che non siano vitto alloggio, cosa che peraltro in alcuni centri è già stata fatta, come scuola di italiano, servizi di sostegno psicologico, nonché anche un taglio soprattutto, e questa non è una cosa di secondo piano, delle ore degli operatori e delle operatrici presenti nel centro, che da un lato vuol dire una riduzione proprio del lavoro per gli operatori, ma dall'altro lato vuol dire dover fare lo stesso identico lavoro con molte meno ore a disposizione, con una stress e frustrazione da parte dell'operatore, ma anche con un potenziale innalzamento del conflitto da parte delle persone che sono accolte, che non si vedono esaurite tutte le loro richieste. Quindi insomma ci potrebbe essere anche appunto una sorta di burnout di questi operatori, o addirittura anche perdita di posti di lavoro? Assolutamente, cosa che tra l'altro per alcuni operatori è già avvenuta. Alcuni operatori, operatrici che conosciamo bene, che alcuni hanno svolto il percorso anche con noi in questi mesi di mobilitazione, che avevano già il contratto a tempo determinato per quest'estate, hanno già perso il lavoro, come molti operatori hanno avuto episodi diciamo molto simili al burnout, cosa che se si prefigura questa situazione potrebbe addirittura aumentare. Voi di fronte a questa situazione cosa siete intenzionati a fare? Allora, noi sicuramente in questi giorni stiamo proprio seguendo con attenzione quello che sta diciamo che andrà a verificarsi con questa eventuale manifestazione di interesse e la scadenza del 31. Abbiamo svolto un'assemblea pubblica rivolta appunto a tutto il mondo del lavoro sociale, degli operatrici e degli operatori dell'accoglienza venerdì scorso. Sicuramente a breve ripartiremo con una campagna di mobilitazione su questi temi, e anche una cosa collaterale sul contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, che ci riguarda in prima persona, che anche lì ci vede protagonisti di diciamo un contratto con condizioni davvero svantaggiose. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. E torniamo in studio alle 10:06 minuti di questo nostro 29 ottobre. Parliamo di economia. Notizia principale è l'addio di Mario Draghi su tutti i quotidiani, da me selezionati dalle prime pagine. Addirittura Draghi lascia la BCE, addio nell'incertezza politica ed economica. Questo è il manifesto. A Francoforte l'omaggio dei capi di Stato e di Governo, il passaggio di consegne all'ex FMI Christine Lagarde. Macron: spetta ai governi europei portare avanti il famoso whatever it takes, così per dirla in maniera anglofona, che decisamente è più accattivante il prendere tutto quello che c'è da prendere. Ma dalla stampa, ovviamente, che si inchina davanti alla realtà di saluto per quanto riguarda Draghi. I leader salutano Draghi: è un campione di europeismo, il passaggio della campanella tra Mario Draghi e Christine Lagarde. Ci riporta nel paragrafo dedicato al quotidiano torinese per l'economia e la finanza, cioè da pagina 18, Draghi, ultimo giorno in BCE, tocca Lagarde con un auspicio: ora ci vuole più Europa. Certo che quello che finora ha fatto l'Europa in campo economico sicuramente è più vicino a banche multinazionali e grandi capitali, poi abbiamo visto cosa si è scatenato. Mattarella: caro Mario, ti dico grazie, BCE, la staffetta Draghi-Lagarde, intervento dello stesso Mario Draghi lo troviamo su Repubblica. Dice: serve più Europa. Quest'anno segna il 20° anniversario dell'Unione Monetaria, una ricorrenza importantissima da ogni punto di vista. Fino a non molto tempo fa l'economia dell'area dell'euro era segnata a un livello di disoccupazione probabilmente mai visto dalla Grande Depressione. Pagina 12 e pagina 13 di Repubblica. Andiamo a vedere lo spazio di approfondimento. Grazie Mario, scritto a caratteri incisivi. L'omaggio di Mattarella a Draghi che lascia la BCE. Il banchiere dichiara: oggi l'euro è irreversibile. La moneta unica è stato un successo, poi così prosegue lo stesso Draghi dalla prima pagina. Ora ci vuole più Europa, non meno. Un estratto delle considerazioni da Dio: la politica monetaria può raggiungere i suoi obiettivi, ma può farlo meglio e hai voglia se le politiche di bilancio sono allineate. L'analisi da Tonia Mastrobuoni, sempre su Repubblica. Lagarde, obiettivo crescita, cercando l'asse con Angela Merkel. La vera sfida è quella contro la stagnazione. Per sconfiggerla c'è bisogno dell'aiuto convinto e concreto della Germania. Le affermazioni di Macron: Draghi ha invitato i governi a stimolare l'economia. Ora questo compito spetta a noi. Vediamo se troviamo qualcosa anche dal Carlino per quanto riguarda questo saluto, che a quanto pare sembra più un lungo addio che qualcosa di immediato per l'euro e tutto quello che ne concerne. Nulla sul Carlino per l'addio di Draghi, però un'analisi per l'economia e la finanza che ci riporta più vicino a noi. Poveri in canna ma consumi da signori, il paradosso del bel paese. Il sociologo Ricolfi dice: più inoccupati che lavoratori, eppure il 75% degli italiani ha un telefonino. Te lo impongono, cioè voglio dire, questo è immediato, te lo danno magari con delle formule che ti legano per non so quanto tempo, ti indebitano e ovviamente la necessità fa in modo che porta all'immediato acquisto. Il 36% va in palestra o nei centri fitness. Ci troviamo di fronte a una ricchezza effimera. In un paio di decenni rischiamo il livello della Grecia, così dice il sociologo. L'educazione finanziaria, il salvadanaio, ormai è roba da museo. Il 31 ottobre è la giornata del risparmio. Ah sì, è Halloween anche il 31 ottobre. Una festa di altri tempi. A scuola gli alunni ricevevano il libretto, è vero. E il forziere, la cassettina forziere, insomma, per invitare al risparmio. Il risparmiatore deve essere vigile e ansioso, altrimenti il patrimonio sfuma. La fortuna dei bambini, il famoso porcellino, no? Dove riporre le monete è come un simbolo, cioè del maiale, non si butta via nulla. Infatti leggo dal giornale: lascio tutto a Pietro Maso. Il testamento della professoressa è per lui 850.000 euro. Pietro Maso fu quello che fece lo sterminatore del Veneto, fece sì che i genitori, però adesso era veduto, allora 850.000 euro. Vedete, non c'è il porcellino e porcellino. Ma veniamo agli esteri, perché c'è destra e c'è destra. In Turingia, per esempio, la CDU, che è destra perché è Democrazia Cristiana, sceglie il male minore, si lamenta quasi Daniel Mosseri dal giornale, e la Merkel apre alleanza con la Link. Quindi da noi si fa gli scendiletto della Meloni, di Salvini, là invece, pur di non avere i nazisti in casa, appoggiano gli interi nemici comunisti. Spaventati dal boom della FD, cioè i fasci, i centristi si buttano a sinistra. Così commentato dal Fatto Quotidiano: l'incubo Merkel, governare con un partito di estremisti. L'esperienza è conclusa, la Grosse Coalition con la SPD al capolinea anche questa terza elezione dell'Under. E dice l'ex DDR, così raccontato dal Fatto Quotidiano: noi siamo il popolo da inno comunista urlo arrabbiato di nazionalisti violenti. Però quello che non dice il Fatto Quotidiano è che è vero che l'FD è aumentata drammaticamente di 10 punti, ma la Link è aumentata di 5 punti. E quindi lì, a differenza dell'Italia, c'è una destra che avanza impetuosa, ahimè, ma c'è anche una sinistra che tiene. Detto questo, in Francia, notizie che fosse stata diversa se avessimo avuto un islamico attaccare con feriti gravi e quant'altro una sinagoga, prima pagina. Ma siccome è stato morto per sparare la moschea, due feriti e fermato 84enne, è in pagina 12. Questo è un nazista, lui è un nazista, quello che attaccato, ha sparato, due persone rimaste gravemente ferite dai proiettili, vengono trasferite in ospedale, poi ha incendiato la porta della moschea, poi la macchina, poi l'hanno fermato. Insomma, è un ex deputato del Front National. Cioè, questo la dice lunga. Naturalmente la signora poi Marine Le Pen ha detto no, noi non c'entra niente queste cose, quando mai? Ma insomma, questo è. In Argentina, gli spettri del passato, così racconta il giornale Paolo Manzo, Argentina torna allo spettro default, trionfo amaro del peronista Fernández. Sommerso dai debiti, il paese rischia l'iperinflazione a breve. Infatti è l'astro che lascia il governo liberista di Macri. Questo, siccome Fernandez, non so come si dica, è peronista, quindi in Italia avrebbe detto di centro-sinistra, il giornale gli scarica tutte le colpe. Detto questo, anche se naturalmente non è esente da colpi, visto che era il portavoce della signora Cristina Kirchner, quindi qualcosa ce l'ha da farsi perdonare. Poi girando vado con un flash di questa mattina in Iraq. Spari sui manifestanti, 18 morti. Drammatico. Un gruppo di uomini mascherati hanno sparato sui manifestanti nella città santa di Kerbalà, a sud di Baghdad, uccidendo 18 persone. Lo rende noto un funzionario iracheno, leggo l'agenzia, che ha citato testimoni. In Iraq, dall'inizio del mese, sono in corso proteste contro la corruzione e il caro vita. Negli scontri sarebbero stati 865 feriti. C'è una vera battaglia. 18 morti, 865 feriti. A Baghdad l'esercito ha imposto il coprifuoco notturno e, malgrado questo, migliaia di dimostranti sono scesi in piazza. In tutto il mondo c'è una crisi sociale enorme che suscita grandi energie, con diversi timonieri a dirigerla. E un cattivo timoniere sembra Boris Johnson, che si chiama Bojo adesso per gli amici. Brexit rinviata al 2020, ma si può uscire prima. Boris voto a dicembre, ma il Parlamento gli ha respinto in questa richiesta di voto anticipato. La data fissata è 31 gennaio, ma potrà cambiare se l'accordo sarà approvato. Infatti Bojo battuto anche sul voto il 12 dicembre. Londra e i comuni di Labour rifiutano la proposta Tory. L'Unione Europea concede una proroga del divorzio fino al 31 gennaio. Sì, riprendo anch'io la Germania, pagina 15 di Repubblica, Oek della AfD, il capo dell'ultradestra che definì vergogna il ricordo della Shoah. Björn Höck, 47 anni, leader in Turingia del partito di estrema destra AfD, nel 2017 definì una vergogna il monumento all'Olocausto. Trionfatore delle elezioni in Turingia, sostiene che Berlino abbia bisogno di nuovo, sottolineo di nuovo, di un uomo forte. Che cosa ci posso fare se mi brucia il cuore, dice, beh, anche ad operare il termine di bruciare. A margine dell'ultimo congresso dell'AfD, Björn Höck ci disse questa frase che ne rivela in nuce l'orrendo fascino che esercita su molti tedeschi. Il leader dell'ala estremista nel partito ha emendato anche un linguaggio tipico dei politici della Germania post-nazista, volutamente asettico, rigoroso, lontanissimo da quello pomposo e intriso di pathos che era tipico di Hitler e Goebbels, ma si leggono le motivazioni della recente sentenza del tribunale di Melingen, che ha deciso che il politico dell'ultradestra può essere definito un fascista, ma lui risponde adulatori, secondo me. Si capisce anche i suoi contenuti aberranti. Certo che fascista è un termine diffamante, hanno scritto i giudici, ma nel caso del trionfatore delle elezioni in Turingia l'insulto è basato su prove verificabili. E come, mamma mia, da delle affermazioni che ha fatto. Proseguiamo per quanto riguarda gli esteri con l'argomento che ci porta in Medio Oriente, già da ieri, no? Con Trump che tronfio diceva abbiamo eliminato il fondatore dell'ISIS al-Baghdadi e piangeva, era disperato, l'abbiamo ucciso come un cane. Questo è il grande statista Trump, no? Intanto c'è sempre bisogno di un capo, c'è sempre bisogno di un utile, cruento e violento personaggio a capo di queste realtà, e quindi già si fanno dei nomi. Karadash lo spietato, perché può diventare il nuovo califfo, il duro ufficiale di Saddam, sarebbe stato scelto dal Baghdadi, ucciso nel blitz degli Stati Uniti nel nord-ovest della Siria, come suo successore. Professore di legge islamica, ha convinto altri militanti per la sua crudeltà. Cioè, appunto, è un motivo di vanto questo suo essere spietato. Chi è? È un militare esperto di Corano e soprattutto la discendenza apparterrebbe alla tribù Kurush e sarebbe discendente del profeta. Ciò le renderebbe legittimo come califfo. Ecco, queste situazioni anche di diritto di sangue, no? Per tutto ciò. Proseguiamo con gli esteri per il manifesto. Pagina ricca per gli esteri dal manifesto, come ogni giorno troviamo anche qui la realtà legata alla Germania, allo stesso modo la fine di al-Baghdadi, euforie e dubbi sull'ennesima eliminazione del capo dell'ISIS, infatti Erdogan loda Trump e anche i curdi rivendicano il loro ruolo, ma Mosca non è convinta. Intanto, per quanto riguarda le affermazioni, FDS Kurd, per 5 mesi c'è stata cooperazione sul campo, un monitoraggio accurato, poi abbiamo organizzato l'operazione congiunta per eliminare al-Baghdadi. Questo è quanto dal manifesto. Con i dubbi della Russia si parte allo show di Donald, perché si tratta di un vero e proprio show. È morto come un cane, ora il suo corpo finirà in mare come quello di Bin Laden. È stato come guardare un film. Ci si chiede cosa abbia però visto davvero, sul manifesto a pagina 14, per quanto riguarda la situazione del Medio Oriente. Per altri giri intorno al mondo non possiamo certo tralasciare l'America Latina, in questo caso l'Argentina è protagonista. Fernandez vince e sfida la crisi economica. Il ticket con Cristina al 48%, ma il futuro dipenderà dalla composizione del congresso. Dichiarazioni di Fernandez: oggi è anche il compleanno del mio amico Lula, detenuto ingiustamente da 1 anno e mezzo. Tanti auguri, spero di vederti presto. Dal Cile, dai fiori a Bella Ciao, genesi di una rivolta. Come ben abbiamo potuto osservare, dal Cile non so quante persone in piazza, e arrivano degli articoli, delle informazioni, a parte che dal manifesto che segue costantemente dagli altri quotidiani. Per quanto riguarda invece il Venezuela, troviamo tanti di quei proclami. Il canto partigiano, restiamo in Cile, ha sottolineato il carattere antifascista della protesta. Giro in Sud America, si arriva a Bogotà, aria di novità in Colombia contro corruzione e Uribe. A Turbaco c'è stato il trionfo del cantautore delle FARC, Guillermo Enrique. Il trionfo della neosindaca di Bogotà Claudia Lopez, qui appunto a pugni alzati, contenta di questo trionfo. A Bogotà, per la prima volta nella storia del paese, ha vinto Claudia Lopez, tra l'altro dichiaratamente lesbica. Sì, tu parlavi di al-Baghdadi e del suo successore. Sarebbe da consigliare a questo punto il libro Cassandra della Wolf, la necessità di costruire sempre un nemico per mantenere il proprio popolo sempre in emergenza di guerra. Quindi morto un califfo se ne fa un altro, l'ISIS mana Kardash, l'ombra del fantasma per il dopo al-Baghdadi. E qui c'è esatto l'apologia su questo al-Kardash, crudelissimo, distruttore, cioè. Però non muore come un cane al-Baghdadi, perché i cani non muoiono. Unico ferito USA, già guarito, il cane eroe dell'operazione, la propaganda non si divergogna di andare nello splatter. Un bellissimo cane, perché se era un bastardino poteva ingrassarci le penne. Di grande talento, è stato ferito e l'abbiamo portato indietro. Questo è Trump. Riguarda il vero wounded in action, ferito, della squadra inviata in Siria. Ieri il presidente ha twittato la foto dell'eroe a 4 zampe, ma il nome resta segreto, perché se imparano che si chiama Fido, dopo la rappresaglia. Nel frattempo c'è la vera storia, la famiglia allargata di un killer premuroso, 3 o 4 mogli, 6 figli, il nipote l'ha tradito, l'ha lasciato perché era in bolletta. Questo è mai. Dunque, per i spiccioli vado, ma sono spiccioli importanti. Monica Ricci Sargentini ci parla del caso che riguarda anche l'Italia, perché ultimamente tante pubblicità vanno sul sentimentale, dai soldi ai bambini qua, dai soldi ai bambini di là. L'appello di Rowling per i bambini: non donate soldi agli orfanotrofi. L'autrice di Harry Potter: picchi usati come esche, meglio finanziare le comunità locali. Cosa succede? Che gli orfanotrofi non siano posti migliori per crescere un bambino lo sanno tutti, ma che 80% dei minori inchiusi in una di queste strutture abbia ancora un genitore in vita è meglio meno immaginabile. Per aiutarli o finanziare questi istituti è meglio fare donazioni alle comunità locali, in modo che i genitori abbiano la possibilità di crescere i propri figli. Questo pagina Corriere, pagina 15, articolo di Monica Ricchi Argentini. Parlavi del memoriale della Shoah, che è stato scandalo a Berlino secondo il neonazista dell'AfD. C'è un altro memoriale che fa scandalo per altri versi: il 9 novembre sarà l'anniversario della caduta del muro a Berlino, deve essere pronto il memoriale della unificazione. Eppure, leggo dal Corriere con Paolo Valentino: Berlino, gli animalisti contro il memoriale che sfratti i pipistrelli. Lite per il monumento e l'unificazione. Bloccato gli animalisti, perché Berlino è ricco di pipistrelli sul fiume che verrebbero sloggiati da questa vicenda, da questo mausoleo. In ultimo, andiamo all'asta, perché viene venduto il cardigan di Kurt Cobain perché quando muoiono giovani diventano subito miti, evidentemente, per una cifra record. L'iconico cardigan di Kurt Cobain, il golf reso noto dalla performance dei Nirvana in MTV Unplugged New York nel 93. Questa è la battuta d'asta del giorno. Questo era Kurt Cobain del suo cardigan di incognito, ma andiamo alla cronaca locale con la folle sfida: quattro ragazzi sui binari, leggo dal Carlino, si sdraiano sui binari per un selfie, meglio farlo davanti alla spiaggia, insomma. Quattro ragazzini stavano per essere travolti dal treno, provvidenziale intervento di un macchinista. Questa è la cronaca. Poi il Carlino la condisce, perché naturalmente ci vuole un po' di severità col vecchio detto che chi ama il bambino non risparmia la verga, inteso come bastone, perché si parla con la polizia ferroviaria e poi con l'immancabile lo psichiatra Riatti. Mettere i divieti difficili, ma i figli no servono. Non ci si siede sui binari quando passano i treni, sia chiaro, eh? Lo psichiatra Riatti, selfie nei comportamenti trasgressivi si cercano sfide per sentirsi ammirati e l'emulazione è un aspetto cruciale. O ci voleva il 6 laurea per dire una cosa del genere, ma probabilmente ne sa di più. È il Carlino che riporta il concetto così ai lettori, e poi ci può essere la grammatica sbagliata dei sentimenti, e poi i casi più frequenti, dalla vodka negli occhi al salto nei balconi, le dita nel naso anche, e anche le puzze in autobus, le pratiche mortali tra gli adolescenti. Questo è il Carlino di quest'oggi. Dunque, prendiamo al Corriere di Bologna, 5 Stelle, abbiamo già detto, la resa di Imola. Invece più da segnalare questa: sequestrata dal marito, abusi quotidiana, le dava infusi per abortire. Cioè, queste mostruosità si ripetono come ahimè acqua fresca, altro che infusi sui giornali. Violenze sessuali continue, abusi fisici e psicologici, e l'odissea di una 28enne marocchina incinta che stava per essere segregata dal marito e dei parenti di lui che erano arrivati a tentare di farla abortire. Ora per l'uomo sono scattate le manette, lei in una struttura protetta. E infine, ultima notizia che voglio segnalare, Bion Astori lascia tutti gli incarichi, non risponde ai magistrati, i suoi legali chiedono la revoca dei domiciliari. Repubblica, antisovranisti unitevi, sempre da Bologna, Bonaccini fa appello agli elettori dei 5 Stelle e punge il PD nazionale. Salvini dice ora tocca all'Emilia, già letto in cronaca nella rassegna nazionale. Il ritorno dei cassonetti in città, 20 tutor insegnano ad usarli. Questo è appunto la prima pagina di Bologna Repubblica. Si prosegue con l'approfondimento, produciamo sempre più rifiuti sotto le torri, 600 chili a testa. Il crack Bion, Astori si è dimesso, la D della ditta di plastiche non parla col giudice, la difesa pronto a collaborare con i dipendenti. Terminiamo poi con quello che arriva dalla stampa in regione, Monet da 1 milione, Degas, Renoir, pensate la galleria di Tanzi che finisce all'asta. In vendita stasera la collezione di quadri del patron di Parmalat, condannato per il crack dell'azienda, il ricavato andrà agli innumerevoli creditori. L'imprenditore aveva nascosto le opere in Svizzera e addirittura nei garage. Quindi attenzione dalle parti di Parma, se capitate nei garage, sai mai che trovate un Degas, un Monet o via discorrendo. Ve lo auguro, come vi auguro una buonissima mattinata all'ascolto dei 103.1, tra pochissimo con Andrea e Susanna fino alle 12.30. Per la rassegna stampa è veramente tutto, una buona giornata da Alfredo e da William.